giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Fuoco a San Dorligo, evacuati ieri sera gli abitanti delle frazioni di Prebenico e Crociata. Situazione ora sotto controllo, tra poco di nuovo in volo gli elicotteri sul fronte dell'incendio. Il Carso come una polveriera, boschi per troppi anni senza manutenzione, dice la forestale. Liliana Resinovic si è tolta la vita. Dai consulenti della procura nuova luce sul giallo di Trieste. A Sacile un caso sintomatico di virus West Nile, conferma attesa per un sospetto a Brugnera. Quasi 1200 nuovi contagi ieri e ben 7 persone decedute per Covid-19, più ricoveri nei reparti ordinari. Carrello pieno a metà, i prezzi cambiano la spesa, ma anche l'organizzazione dei supermercati. Caro energia e benzina, le stelle dissuadono i turisti italiani dal last minute di passaggio. Antonella Ruggero, l'indimenticabile voce dei Mattia Bazzara a Pordenone con il maestro Walter Sivilotti. 7:19 minuti di mercoledì 10 agosto, buongiorno da Nada Cioc e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo: il cielo è sereno o poco nuvoloso sulla regione. Alle 6 c'erano 23 gradi e mezzo a Trieste, mare poco mosso con temperatura di 21 gradi. A Udine e Gorizia 20 gradi, a Pordenone 18, a Tolmezzo 17 gradi, a Forni di Sopra 13, sul Piancavallo 10 gradi e mezzo, a Tarvisio, a Sappada e sul monte Zoncolan 9 gradi e 5 decimi, sul monte Lussari 8 gradi e mezzo, a Grado e Lignano 24 gradi, temperatura del mare di 26 gradi. Le previsioni: tempo stabile con cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso per qualche annuvolamento pomeridiano sulla zona montana. Farà ancora piuttosto caldo di pomeriggio, ma asciutto. Soffierà bora moderata su pianura e costa, a tratti sostenuta sulla zona di Trieste, specie di notte e di mattina. E partiamo allora dall'emergenza incendi, che continua a tenere con il fiato sospeso tutto il territorio di Trieste. Il rogo che dalla Slovenia è arrivato a lambire San Dorligo della Valle ha reso necessaria ieri in serata l'evacuazione delle frazioni di Prebenico e Crociata. Gli abitanti della prima frazione, circa 150 persone, quelli di Crociata circa 50, avevano già lasciato prudenzialmente le loro abitazioni nel pomeriggio su invito del sindaco Sandy Klum, che ha poi trasformato quel consiglio in un'ordinanza. Il comune aveva attrezzato la palestra di San Dorligo con le necessarie brandine per passare la notte, ma gli sfollati hanno trovato sistemazioni presso familiari e amici. La palestra infatti è rimasta vuota. Questa mattina comunque tutti potranno rientrare nelle proprie abitazioni a partire dalle 9. Tra pochi minuti si rialzeranno in volo due elicotteri. All'alba siamo stati a Prebenico, alle porte del paese per tutta la notte ha stazionato la cisterna chilolitrica, cioè da 1000 litri, dei vigili del fuoco. Gli idranti sono ovunque, già armati di pompa in caso di emergenza, e una ventina di mezzi della protezione civile, dei vigili del fuoco e del corpo forestale stazionano nel centro del paese. Per tutta la notte ha coordinato le operazioni l'ispettrice del corpo forestale regionale Alessandra Tribuson. Sentiamo. La situazione questa notte è stata abbastanza tranquilla, anche se ieri sera non eravamo del tutto convinti che avremmo potuto passare la notte bene. C'erano ancora sui bordi alcune fiamme, alcune ceppaie che fumavano. Abbiamo tenuto qui 4 squadre di volontari che hanno continuamente sorvegliato le strade, sia sotto il paese di Prebenico, sia anche entrando in parte in Slovenia sulla parte verso il castello di San Servolo, dove hanno fatto anche delle bonifiche, e siamo stati comunque anche supportati da diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno stazionato attorno al paese e provveduto a fare i rifornimenti idrici alle squadre che hanno operato. Ieri sera è arrivata l'ordinanza di evacuazione di Prebenico e anche della frazione di Crociata. Sì, è stato deciso di concerto col sindaco, con i vigili del fuoco, di evacuare comunque questi due paesi, appunto perché temevamo, viste le previsioni di vento forte e anche la vicinanza del bosco non ancora bruciato da alcune abitazioni, che potessero verificarsi le situazioni di pericolo. Voi avete passato qui la notte, adesso ci sarà un cambio turno? Dopo quante ore? Io sono qua da ieri pomeriggio, abbiamo passato comunque la notte qua e stamattina arriveranno altri colleghi, altre squadre dei volontari che sono già predisposte. Dovrebbero arrivare due elicotteri comunque già la mattina e valuteremo l'eventualità di attivare i Canadair come ieri. Sono già predisposti i vasconi per il rifornimento idrico e le autobotti dei Vigili del Fuoco per il rifornimento di vasconi, per riempimento di vasconi. Quindi siamo pronti per ogni eventualità. Ieri fino alle 20.30 hanno gettato acqua sulle fiamme a cavallo del confine 3 aerei e 5 elicotteri, 2 Canadair della Protezione Civile che complessivamente hanno sganciato 210.000 litri di acqua sulle fiamme, poi un aereo dell'esercito sloveno e 5 elicotteri, di cui 3 italiani e 2 sloveni per contenere l'incendio. Ma sentiamo la cronaca della giornata di ieri quando le fiamme sono arrivate proprio a Prebenico, sospinte dalla forte bora. Ancora fiamme, ancora paura. Questa volta l'incendio interessa il confine più orientale di Trieste, Prebenico, 150 abitanti di una frazione del comune di Sandorligo della Valle, l'epicentro del fuoco in territorio sloveno. Quando sembrava sotto controllo, ha invece ripreso forza. La colonna di fumo, visibile da Trieste, con le fiamme arrivate davvero a pochi passi dalle case di Prebenico. Io sono stato avvisato, mi sono precipitato su, c'erano i vigili del fuoco, stavano già spegnendo, hanno tutta la terrazza che era in legno, rivestita con un pavé di teak, ha preso fuoco completamente distrutta adesso. Impegnati i vigili del fuoco italiani con tutte le squadre di Trieste e rinforzi da Gorizia, Udine e Pordenone. Con i vigili del fuoco sloveni stanno facendo squadra per contenere le fiamme che continuano ad interessare la vegetazione. Ogni volta che cambia la direzione del vento la situazione si va a modificare, quindi finché ci sarà luce faremo il massimo con i mezzi aerei e comunque stanno arrivando anche colleghi da oltre che dalle province della regione anche da altre regioni limitrofe. La preoccupazione riguarda anche l'oleodotto Siot a pochi chilometri di distanza, ma riguarda soprattutto la notte quando i mezzi aerei non possono più volare. Trieste, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Continua il monitoraggio dei forestali e della protezione civile anche sul Carso Isontino, teatro del devastante incendio di fine luglio. Monitoraggio necessario per scongiurare la riattivazione di qualche focolaio. Gli incendi più devastanti sono scoppiati nella zona di Devetacchi perché, secondo la forestale, manca la bonifica dei boschi necessaria alla prevenzione. La condizione del carso in questo momento è come avere una grandissima polveriera dove basta niente perché riprenda fuoco da qualunque parte. Carso, una polveriera esplosiva che non permette tregua, così Massimo Stroppa, direttore dell'Ispettorato Forestale, ci stava spiegando la condizione di costante tensione e allerta in cui il corpo opera quando, a meno di 50 km da dove eravamo, prende vigore l'incendio di Prebenico. E dire che eravamo venuti a Devetacchi, frazione di Doberdò del Lago, dove 2 settimane fa le fiamme hanno devastato ettari di carso e costretto le persone ad evacuare, per capire perché siamo arrivati a tutto questo. Ma non viene fatta manutenzione? La manutenzione è una cosa che andrebbe fatta, ma è molto difficile farla perché la maggior parte delle proprietà sono private e quindi come tali non è possibile imporsi sul privato per fare questo tipo di attività. Oltre il 90% dei terreni appartiene a privati, spesso irrintracciabili persone che hanno ereditato e che stanno all'estero. La forestale non può intervenire senza autorizzazione, così dice la legge, neppure per creare le strade per passare poi con i mezzi di soccorso. E visitiamo una delle case che è stata più esposta alle fiamme. Il proprietario Alessio Zambon ci mostra quanto vicine sono arrivate le fiamme. Attorno alla sua proprietà c'è bosco selvaggio che si è acceso come una torcia. Io ho contattato i vicini se per piacere tengono pulito, perché questo qua è un fondo di molti proprietari, quindi è difficile mettere d'accordo tutti. E c'è disponibilità di intervenire? Penso di sì, perché visto quello che è successo. Abbandono boschivo, siccità prolungata, bora, un mix micidiale. Purtroppo quest'estate sembra non sarà l'eccezione. Noi dobbiamo abituarci che il cambiamento climatico ormai è una cosa sodata e quindi quello che sembra un'estate eccezionale probabilmente sarà la norma, se non addirittura ci saranno delle estati anche peggiori. Devetacchi, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Diana Resinovic è morta 2, massimo 3 giorni prima del suo ritrovamento avvenuto il 5 gennaio scorso nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Un decesso per asfissia, una morte volontaria. Sono queste le conclusioni a cui sarebbero arrivati, secondo l'agenzia di stampa DN Kronos, i consulenti della procura che indagano sulla 63enne scomparsa il 14 dicembre dello scorso anno e ritrovata vestita con il corpo in 2 sacchi della spazzatura e con 2 buste di plastica intorno al capo, non strette. Nella bozza della relazione firmata dal professore di medicina legale Fulvio Costantinides e dal medico radiologo Fabio Cavalli, inviata ai consulenti di parte per le loro osservazioni, gli esperti incaricati dal sostituto procuratore Maddalena Chergia mettono nero su bianco i risultati dell'autopsia e degli esami tossicologici. Viene esclusa l'assunzione di droga o farmaci e le deduzioni lasciano propendere per un gesto che non abbia coinvolto altre persone. Resta da capire cosa è successo dal giorno della scomparsa a quello della morte di Liliana Resinovic. Un nuovo caso di febbre del Nilo è stato scoperto ieri in regione a Sacile. Questa volta la persona infetta presentava sintomi, sia pure lievi, e c'è un altro caso sospetto a Brugnera. I sanitari però assicurano è un virus che conosciamo bene, abbiamo le contromisure. È arrivato anche il primo caso sintomatico di West Nile in regione a Sacile e uno sospetto a Brugnera. La conferma dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale. Nel primo caso si tratta di un anziano con sintomatologia lieve. L'uomo è residente in una zona di campagna a Sacile. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Lucio Bombenne. Le condizioni di salute sono buone. Sono molto buone, nel senso che c'è solo un quadro di sintomatologia molto lieve e che quindi non è quelle forme purtroppo brutte che si sono viste per esempio nel Padovano. Trattandosi di un caso isolato, il protocollo non prevede la disinfestazione dell'area, ma una sorveglianza attiva e un sopralluogo nell'abitazione dell'uomo. Ancora Bomben. Verrà fatta una accurata anamnesi da parte dell'assistente sanitaria che dovrà descrivere quello che è successo, il caso, i contatti che ha avuto il signore, eccetera. Poi si procederà con 2 tecnici della prevenzione che andranno a fare un sopralluogo nell'abitazione della persona per vedere se ci sono situazioni di rischio, per dare eventuali consigli di prevenzione, ad esempio levare l'acqua dai vasi. Per il caso sospetto di Brugnera bisognerà attendere gli esiti delle analisi complete. Questi si aggiungono agli altri 3 casi riscontrati in regione da sacche di donatori asintomatici. Nel vicino Veneto i casi di febbre del Nilo in alcuni territori hanno superato quelli da Covid anche con esiti mortali. Le misure preventive che vengono messe in atto sono più che adeguate. Il virus è conosciuto molto bene, a differenza dei primi periodi del Covid. E sappiamo qualcosa bisogna fare, sappiamo le eventuali terapie. I problemi sono solo per quelle persone che hanno anche altre patologie di un certo significato. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora i numeri dei contagi da coronavirus. Ieri sono stati registrati 1.185 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia. Il tasso di positività settimanale per 100.000 abitanti è sceso a 530. I ricoveri sono aumentati di 10 unità rispetto a lunedì e si attestano a 242 in tutto, per effetto di una crescita dei pazienti in area non critica e di una riduzione di quelli in terapia intensiva. In terapia intensiva si trovano attualmente 3 pazienti, ben 7 sono stati i decessi registrati ieri. 5 a Udine, 1 a Trieste, 1 a Gorizia. Ed è prevista a partire da domani il rafforzamento del servizio di assistenza chirurgica territoriale in Val Canale Canal del Ferro, lo rende noto l'azienda sanitaria Friuli Centrale, precisando che sarà garantita la disponibilità di un chirurgo per effettuare a domicilio valutazioni non urgenti, medicazioni, sostituzione di dispositivi e prestazioni chirurgiche per pazienti difficilmente trasportabili. Una volta al mese sarà possibile ottenere le stesse prestazioni nel poliambulatorio di Pontebba per i pazienti che sono invece trasportabili. E ancora cronaca con l'incendio divampato ieri pomeriggio in una casa di Aiello. Le fiamme sono partite dalla cucina dell'abitazione di Via Alfieri, dove vivono una donna anziana allettata e la sua badante. Le due donne sono state aiutate a mettersi in salvo da un vicino che anche ha allertato i soccorsi e sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Palmanova. A spegnere il rogo prima che si propagasse al resto dell'abitazione sono stati i vigili del fuoco di Cervignano. E a Trieste ieri un operaio edile di nazionalità kosovara è stato colpito nella prima mattina con un martello dal suo datore di lavoro alla stessa altezza della centralissima via Carducci, dove a settembre ci fu una sparatoria tra due famiglie di nazionalità kosovara a scatenare il diverbio tra i due. Pare delle somme non corrisposte dal datore di lavoro e reclamate dal dipendente. All'arrivo degli agenti della mobile l'uomo era a terra, l'aggressore è stato rintracciato poco dopo. Quanto successo ha fatto sapere la procura non ha relazione con quanto avvenuto però lo scorso settembre. Inflazione, caro energia e caldo, i carrelli della spesa sono meno pieni e la grande distribuzione fa i conti con carenze di personale e difficoltà organizzative. Al supermercato, caro energia, siccità e inflazione hanno un effetto molto chiaro sui consumi e creano allo stesso tempo una gran confusione nella distribuzione organizzata. Si spende con più testa e meno sprechi, soprattutto sul fresco. Ma se su 10 consumatori 8 stanno più attenti, le cose cambiano, dice Giuseppe Pavan, vicepresidente nazionale di Fedagro Mercati. Si è abbassato, aggiunge, il numero degli scontrini, ma anche il loro importo totale, già da inizio estate. Prendi un panino in meno piuttosto che uno in più, vedi, sei più oculato, questo sì. Adesso, essendo estate, si mangia più verdura, anche se è carissima oltretutto, però insomma si mangia di meno. L'abitudine a livello a casa, tipo di non sprecare l'acqua, di prendere, non usare tante robe a mano, le robe di plastica, insomma, acqua di rubinetto. Lungo la filiera agroalimentare c'è mancanza di personale nelle campagne, ma anche nel notturno, nella distribuzione. È un mercato impazzito, un esempio su tutti. Se la bibita è in plastica, nessun problema di fornitura. Se è in lattina, un po' meno. Emanuele Vidotti, titolare di un supermercato. Problemi che riguardano l'approvvigionamento dei vetri per fare i barattoli, degli imballaggi in alluminio e dei cartoni, comportano tutta una serie di ritardi e di aumenti nei costi di gestione e degli ordini, insomma. Si lavora alla giornata, si fa un ordine e si spera che arrivi. Ci troviamo che non sappiamo come impostare i margini o le promozioni e le politiche di prezzo. E questo comporta grossi problemi ed è un problema che non possiamo ignorarlo. Fino a un po' le aziende hanno cercato di assorbire questi costi all'interno dei propri margini, ma arriverà un momento in cui questo non sarà più possibile e per forza dovranno riversare questi maggiori costi verso il pubblico, verso i clienti finali, insomma. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Drastico calo di turisti last minute, assenza di quelli di passaggio, soprattutto nei fine settimana, è la caratteristica di questa stagione turistica, nota Paola Schneider, presidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia, analizzando l'andamento dei flussi turistici in regione. Di fatto gli hotel al mare sono pieni al 90%, mancano però le prenotazioni dell'ultima ora, tipiche degli anni passati. In montagna la situazione è a macchia di leopardo, con zone che registrano il tutto esaurito e altre dove invece le presenze sono minori. Tuttavia per Schneider i dati sono confortanti, la stagione è salva grazie all'arrivo dei turisti austriaci e tedeschi. Un quadro che penalizza comunque i turisti italiani, 3/4 della busta paga di un dipendente medio, dice ancora la presidente regionale di Federalberghi, servono a coprire i costi aumentati a dismisura dell'energia e dei beni essenziali. Poi c'è la benzina e così la spesa destinata alle vacanze si riduce sensibilmente. Risultato una diminuzione notevole di presenze sulle vacanze fatte in giornata che fino agli anni passati era una costante nei nostri territori, conclude Schneider, auspicando una politica nazionale di incentivi sull'esempio del bonus turista riservato ai residenti in Friuli Venezia Giulia. Le elezioni del 25 settembre si avvicinano e si fanno stringenti gli adempimenti preliminari, come la presentazione di coalizioni e liste di candidati. Partiti e movimenti devono tener conto del sistema elettorale particolarmente complesso. Abbiamo sentito uno dei componenti della commissione che ha ridefinito i collegi elettorali. Le elezioni politiche del 25 settembre saranno le prime dopo la riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari e le prime con il voto per i diciottenni consentito anche al Senato. Saranno invece le seconde con la legge attualmente in vigore, il cosiddetto Rosatellum, con liste bloccate e quote di genere, è basato su collegi uninominali e plurinominali, cioè proporzionali, per Camera e Senato. Paolo Feltrin, già professore di scienza politica all'Università di Trieste, è un profondo conoscitore dei sistemi elettorali in Italia e ha fatto parte della commissione governativa che ha ridefinito i collegi. In Friuli Venezia Giulia i deputati passeranno dagli attuali 13 a 8. In Friuli Venezia Giulia ci sono 3 collegi uninominali alla Camera, più o meno coincidenti con la provincia di Pordenone e la Montagna, la provincia di Udine e Gorizia, e il terzo Gorizia Trieste, con delle piccole sfasature legate ai limiti di popolazione. Quindi nei 3 collegi uninominali Camera passa chi prende un voto in più. Nell'unico collegio plurinominale Camera invece vengono assegnati 5 seggi in proporzione ai voti presi. A Palazzo Madama i senatori della regione passeranno da 7 a 4. Il Senato ha in Friuli Venezia Giulia un unico seggio uninominale che coincide con tutta la regione, dove vince chi prende più voti, e un unico collegio plurinominale dove vengono assegnati 3 seggi, anche in questo caso in modo proporzionale. Al proporzionale sono previste varie soglie di sbarramento, fra queste 10% per le coalizioni, 3% per le liste che si presentano da sole. Le regole non sono semplici, ma come mai? Per 2 ragioni. La prima ragione è che nel cercare di dare un equilibrio proporzionale o maggioritario, nel tener conto della parità di genere, nel tener conto delle minoranze etniche, nel tener conto della popolazione, inevitabilmente le cose sono complicate. E poi perché ci si mettono di mezzo inevitabilmente anche gli interessi di parte. Tuttavia, se uno va a vedere la scheda elettorale è semplicissima. Da un punto di vista dell'elettore, votare per certi versi è ancora più facile che in qualsiasi altra elezione. Ludovico Fontana, TGR Friuli Venezia Giulia. Lavori quasi ultimati nel prefabbricato realizzato in tempi record per gli alunni della scuola Gasparo Narvesa di Pordenone che frequenteranno l'intero prossimo anno scolastico nella struttura di Via Peruzza a Torre. Lo stabile si trova nell'area adiacente alla palestra dell'Istituto Flora. Lo spostamento temporaneo è dovuto alla necessità di eseguire gli urgenti lavori di sicurezza antisismica della scuola di Via Fonda che sono già stati avviati. Obiettivo del piano investimenti del Comune è rendere le scuole sicure dal punto di vista sismico, moderno ed energeticamente efficienti, creando un ambiente accogliente per alunni e docenti, ha detto il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. La scuola Polmone di Via Peruzza a Torre per 3 anni accoglierà a rotazione prima i bambini della Narvesa, poi quelli della Grigoletti di Rorai, che sarà completamente rifatta con la costruzione anche di una mensa e la sistemazione delle aree di sosta esterne ed infine quelli della Beato Dorico di Torre, anch'essa oggetto di una riqualificazione complessiva. 45 biciclette segnalate come abbandonate sul territorio comunale di Udine sono state rimosse ieri dalla polizia locale. Spesso si tratta di veicoli rubati, sottolinea Palazzo d'Aronco, che creano degrado e magari impediscono ai ciclisti di usare le rastrelliere messe a disposizione. Delle 45 bici rimosse, 15 sono state smaltite come rottami insieme a un monopattino elettrico. I restanti veicoli sono stati portati all'ufficio rapporti con il pubblico. Gli spettacoli per estate a Pordenone, l'Accademia Naonis organizza in piazza 20 settembre il concerto con Antonella Ruggero insieme all'orchestra diretta da Walter Sivilotti, inizio alle 21. Ancora concerti, Carni Armonie propone a chiusa forte nella sala polifunzionale il concerto del quintetto friulano composto da Francesco Tirelli alla voce, alle percussioni, Marco Bianchi alle chitarre, Nicola Tirelli alle tastiere, Mirko Cisilino alla tromba e corno e Alessandro Turchet al contrabbasso. Saranno gli interpreti del progetto dell'amore e della libertà. Doppio concerto a Cividale con gli incontri di musica da camera. Si inizia alle 18 nel Duomo con il violoncellista Julian Arp, che proporrà un programma dedicato a Bach. Il secondo appuntamento alle 21 nel monastero di Santa Maria in Valle, dal titolo Messaggeri di Pace, interpreti due compositori ucraini, Valentin Silvestrov e Maxim Shalygin. A Gradisca di Sonzo, Galleria Spazzapan, continua il calendario degli eventi collaterali legati alla mostra Artista più Artista, Visioni Contemporanee, organizzata da Erpac alle 18.30, live performance IMH di Paola Pisani con Ivan Penov, viaggio nella percezione attraverso colore e suono, dove si esalta il sentimento panico della natura. Alma Mistero, dove scompaiono gli scomparsi, è il titolo della sesta edizione di Microfestival, rassegna itinerante di arte performativa. La tournée comincia a Lusevera, nell'area festeggiamenti, alle 18.30. La mia anima è a Trieste, il titolo dell'ultimo appuntamento di Trieste Operetta Festival al Castello di San Giusto alle 21. Lo spettacolo prodotto dall'Associazione Internazionale dell'Operetta Friuli Venezia Giulia è scritto e diretto da Marzia Postogna, che sarà affiancata sul palco da Ariella Reggio, Elisa Columni e la voce di Andrea Binetti. Tra arie liriche, canzoni e versi di poeti legati a Trieste, anche i personaggi di Carpinteri e Faraguna e Angelo Cecchelin. La musica dal vivo della jazz band Trieste Mia, diretta da Marco Ballaben, inizio alle 21. E Calici di Stelle ritorna oggi e domani ad Aquileia. Le degustazioni si terranno nella piazza Capitolo davanti alla Basilica. A Palmanova, la notte di San Lorenzo, ritrovo sul bastione Donato per osservare il cielo stellato. L'ingresso all'area sarà possibile da Contrada Donato attraverso l'ex caserma Filzi. Evento gratuito e senza necessità di prenotazione, che comincerà alle 20 con accesso all'area e la possibilità di picnic autogestito. Alle 21 musica, alle 22 l'illustrazione di pianeti, stelle e costellazioni con Alessandro Di Giusto, giornalista e astrofilo. Assieme all'osservazione del cielo stellato e della luna, gli appassionati possono portare i propri telescopi. In Valresi, a Stolvizza, dopo gli incendi e il ripristino della viabilità, con tutti i locali e le attività riaperte, questa sera la tradizionale camminata notturna sotto le stelle. Desideri di San Lorenzo, il titolo scelto dall'Associazione Vivi Stolvizza, che cura l'organizzazione insieme al Parco Naturale delle Prealpi Giulie e la FIASP di Udine. Ritrovo a Stolvizza alle 18 davanti al Museo dell'Arrotino, percorso lungo o corto, tagli papot, cena agreste e musica, prenotazione obbligatoria. Siamo alla rassegna stampa con il piccolo che apre con la foto di un elicottero dei vigili del fuoco e titola Il fuoco alle porte di casa. Quindi Varzila reclama i motori bloccati nella fabbrica, e il pressing quindi del gruppo finlandese sulla prefettura per le penali che scattano in caso di ritardi nella consegna ai clienti. Pressioni dalla coreana Daewoo e per il gruppo va interrotto il blocco ai cancelli, scrive ancora il piccolo. Blocco messo in atto dagli operai dall'annuncio dello spostamento della produzione in Finlandia e dell'annuncio di 450 esuberi. I sindacati rispondono: il presidio resta, non uscirà un solo bullone. Poi sempre in prima pagina il ritratto di Liliana Resinovic per i consulenti della procura, si è suicidata. Nelle pagine della cronaca anche acquario rinnovato, nelle vasche tornano i primi pesci e ancora l'addio a Franco Bonetta, anima di locali e discoteche fra gli anni 70 e 80. Per lo sport, l'addio al basket dopo 20 anni del Cava, cioè Daniele Cavaliero, è ora di lasciare, dice in un ampio ritratto nelle pagine dello sport. E la storia ancora, dall'Iran alla Sissa, la storia di Elehe, la scienziata che ama l'opera, studia fisica statistica. In taglio basso il ritratto di Don Mario Vatta, che compie 85 anni e dice: la città ci aiuti. Un'azienda su due aiuta le famiglie dei dipendenti e l'apertura del Messaggero Veneto di Udine, dedicata a iniziative come mense gratuite, centri estivi, assicurazioni, sanità integrativa per far fronte al caro vita. Nella fotonotizia un'immagine dell'incendio sul Carso in soccorso, si legge anche i vigili del fuoco friulani. Di spalla, ambientalisti contro la strada sul Lussari per il Giro d'Italia. Sotto, anche sul Messaggero Veneto, la conferma dei periti sulla morte di Liliana Resinovic a Trieste. A Prato Carnico invece uno scout trova dei biscotti alla marijuana, li mangia e si sente male. Uno dei responsabili del campo estivo, un 23enne bolognese, è stato denunciato. In taglio alto, produzioni di frutta e uva salve, in calo però i raccolti di mais e soia, e accanto il caro energia frena, anche la CO2, scarseggiano le acque frizzanti. In taglio basso un richiamo per il filosofo che vive nel cassonetto a Moggio, la sua, dice, è una protesta civile. In apertura della cronaca di Udine l'accordo trovato sulla prosecuzione delle attività delle unità di assistenza domiciliare per i malati Covid, 23 medici al lavoro per 3 mesi, 23 euro l'ora più 15 di integrativo regionale. Sul Gazzettino, Bussi, il metano manda tutti in rosso, in difficoltà ATAP e arriva. Poi l'ospedale Palmarino, il sindaco mobilita per venerdì cittadini e politici della città stellata. Nella fotonotizia udinese, Deulofeu guida l'attacco del Milan, sabato l'esordio di campionato. Di spalla Friuli Doc, l'edizione con il ritorno delle proloquo e la siccità, primi alberi morti in via Carducci e in via Cividale. In taglio basso elezioni, caselle ancora vuote, ora è caos nel PD, e accanto il basket, il play argentino Willan piace all'Old Wild West. Per i consulenti della procura, Lilli si è suicidata, e l'apertura dell'edizione di Gorizia del Piccolo, a fianco un'altra fotonotizia: Grado, turisti fino a novembre, le prenotazioni in linea con quelle del 2019, quindi pre-Covid. Nella colonna di cronaca, le scuole di Gorizia nel nuovo campus nel vecchio ospedale, perplessi però i dirigenti del liceo Slataper e dell'ITIS Galilei. Bisognava coinvolgerci. Ancora a Gorizia, vaccini Covid nel polo fieristico fino alla fine dell'anno. I due temi aprono la cronaca cittadina insieme alla disinfestazione per legionella e la sostituzione dei rubinetti al canile. E a Gradisca in arrivo il weekend della fiera ornitologica e canina. Ancora lo sport con il calcio, il figlio di Bonolis fra gli alabardati della primavera. Punto dai calabroni, muore per shock, vittima un boscaiolo di Clout. Jimmy Davide aveva 45 anni. Questa vicenda apre il Gazzettino di Pordenone. Anche qui nella fotonotizia il caro metano che manda in rosso le aziende del trasporto pubblico locale. Di spalla, incendio al Canoa Club di Sacile, raccolta fondi per gli aiuti, e a San Vito la radiologia, dove il direttore Minuzzo dice mancano 5 persone. Poi a Pordenone il sindaco promette basta con vandali e sballati, ci sarà un giro di vite. In taglio basso la politica e il calcio nero-verdi, la Serie C comincerà in ritardo. Sul Messaggero Veneto, rispetto all'edizione di Udine, cambia la colonna di cronaca: Covid e caro cantieri fanno slittare di 2 anni la bonifica dell'INAIL. Poi investita da un'auto vicino all'ospedale, grave un'anziana, e ancora la fame furlane di New York in lutto, la morte del presidente Filippi Terrazzere, originario di Frisanco, le fasce di Pordenone, dice, esempio di laboriosità. Infine in basso i pacifisti ricordano Don Di Piazza nella manifestazione di Aviano. Nel 106esimo anniversario della morte di Nazario Sauro, celebrazioni indette dal Comitato per le Onoranze a Sauro e dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in collaborazione con il Comune di Trieste, con enti, istituzioni, sodalizi patriottici, sportivi e realtà rappresentative del mondo dell'esodo dalle terre dell'Adriatico orientale. Alle 17 la deposizione di fiori al cippo al Parco della Rimembranza a San Giusto, alle 18 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Soccorso di Piazza Ortis la Santa Messa. Un corteo raggiungerà quindi Piazzale Marinai d'Italia, mentre nel bacino San Giusto arriveranno i natanti del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro e del Circolo Canottieri Saturnia. Davanti alla stazione marittima alle 19 la lettura del testamento spirituale di Nazario Sauro e la deposizione ufficiale di una corona d'alloro al monumento dell'eroe capodistriano. Ancora appuntamenti, investimenti in economia reale come diversificazione del patrimonio a Lignano per economia sotto l'ombrellone alle 18.30 al chiosco 5. Per libri autori a grado e salotto in spiaggia al Velarium alle 18 Antonio Boemo, intervistato da Marino De Grassi, presenterà il libro Ricordare Grado, nuove edizioni della Laguna. E ad Ogna oggi inaugurazione della nuova piazza Fred Pittino, del nuovo negozio polifunzionale. Sarà inoltre inaugurata la scultura Vapca Fiume della messicana Gabriela Salinas, donata dal circolo Il Faro di Vergnacco. Appuntamenti a partire da mezzogiorno. E ancora alcune informazioni utili. Il Comune di Trieste informa che oggi il centralino telefonico comunale rimarrà chiuso. Per informazioni sui numeri telefonici è possibile consultare il sito del Comune di Trieste, sezione rubrica comunale. E sempre da oggi a venerdì 12 l'ufficio autorizzazioni, uso strumenti e macchinari rumorosi rimarrà chiuso, modulistica specifica reperibile nel sito istituzionale. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 gli Spredicis dal Muini, un classico della letteratura friulana del secondo Novecento di Don Giuseppe Marchetti. Dalle 11.20 il contenitore radiofonico che attraversa i luoghi e le risorse del nostro territorio con le mani, con i piedi, con il cuore. I programmi regionali tornano poi alle 14. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Maurizio Mona e Walter Vidonis. In redazione ha collaborato Valentina Venerdì Ruso, da Nada Ciocca e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.